Quando io morirò non voglio che nessuno pianga, niente lacrime d'amore o di circostanza. Quando io morirò non voglio fiori né corone, bruciate la mia carcassa e poi buttatela in un fiume. Quando io morirò voglio pochi amici intorno, a cantare, a suonare tutto il giorno. Fate una grande festa, amici, fate un gran casino e inghiottite al posto mio tutto il cibo e tutto il vino. Quando io morirò, amici miei, vi chiedo, non mi date in pasto ai preti, ve ne prego. Non voglio il suono stanco delle prediche ispirate, non voglio l'olio santo e le ostie consacrate. Quello che io voglio è una piccola candela, un lumino acceso all'ombra della sera. Mettetelo a un incrocio dove soffia forte il vento e scordatevi di me. Appena sarà spento. Quando io morirò, bruciate ogni fotografia, liberatevi dalla tristezza e dalla nostalgia. Quando io morirò, avrò finito di soffrire e avrò trovato un posto caldo dove andarmene a dormire. Quando io morirò qualcuno forse mi ricorderà, ma come sono io davvero nessuno lo sa. Quando io morirò sarò semplicemente nudo come un albero d'inverno, come un angelo abbattuto. Quando io morirò evitate di parlare, è inutile sprecare il fiato per chi non può ascoltare. Quando siamo sottoterra diventiamo tutti buoni, soprattutto perché non siamo più qui a rompere i coglioni. Quello che io vorrei è morire semplicemente come un elefante, un cane o un serpente. Restituire alla natura il mio corpo e la mia mente e fare in modo che di me non ne rimanga niente.